Oi Billy, su che andiamo? Sono vicino. Perché sono vicino sono, ecco cos'è. Perché la visione si sente. Ma poco, non si disturba, Lo supera abbastanza, dai, per cui. Già si sente, ma poca roba. Oh, va bene così allora. Già andate. Ah, ma ragazzi, e questa si sente. Ah, oggi non la sento. Da altri giorni sì, ma oggi non la sento. Perché oggi il microfono suo sto. E a farlo scaldare anche a lui, capito? Gli sta a fare tutto. Mary, ma i 5-5-5-5. Quello preciso al 6009. L'attacco del microfono. Ci sta bene quello del coso, l'MP4. No, ma sotto. Non ho provato l'MP4 perché l'MP4 sono attaccato al coso, al corrispondente. Sì. Qua, sì, questo qua al 6009, a quello del 5005, i microfoni sono tutti uguali, perché sono precisi, cambia solo il colore dei display e basta. E invece il microfono del 6009 a questo del 5005 sono precisi. Vado bene ugualmente tutti e due uno con l'altro, capito? No, stai attaccando l'MP4. Non c'è bisogno di spostare il fine, no? Non lo so, non l'ho provato l'MP4. Non l'ho provato perché l'MP4 sono attaccato al codice 3006, già lo sai. Capito? e per cui lo so se va bene, ma non l'ho provato, Andate in uscita. Perché mi hai fatto questa domanda? No, che volevo vedere se la, se riesco a prenderlo. Come fa per cagliare l'MP4? Aspetta, provo, non mi costa niente, lo provo, però. Dammi 5 secondi e non so cosa va, la sacco qua a vedere se va bene o no, ok? Ella. Otto. E la Giammarì. Ecco, questo è l'MFB4, già va bene già. Infatti, già va bene, è anche amplificato un po'. Che c'è? Prima usavo il Roma, adesso c'è l'MFB4 amplificato, per cui va bene. A voglia. Certo, se va bene. Ok, d'accordo, di sacco metto il normale, vai. Ella. Ecco tu. Ella. Ma va bene, sì, a voglia, te la fa più grossa la voce. Perché è normale, no? Amplificato. Qua che siamo sul con il 3000C dall'altra parte, quanto l'altro l'esaenza pro, quello tutto in plastica che ci abbassa le cose, il collo del microfono, questo qui, aspetta che ti metto anche questo qua a provarlo, un po' come se va. Cambia o no? Più metallica te la dà. Più metallica. Va, questa è l'esaenza pro. Sì, te la dà più metallica la voce. Però è chiaro, lo stesso. È quello che conta, va. Non c'è bisogno di cambiare il filo e niente, del 4 e del qua. E per cui quello non mi va, il classificato non mi va, e per cui meglio il normale, mi piace il normale. Dai, andare, già va benissimo. Ecco qua, e questo è più. Mi piace più bene, capisco, a toccare allungare le mani, a spostarmi, no? Almeno questo tiro il cordone e ce l'ho sempre davanti, capisco? Ognuno i suoi gusti. Come? Ognuno i suoi gusti. Ognuno ha i gusti suoi, infatti. È giusto così. E poi gli sono andare. Allora stai pensando che ci sta a prendere 5.000 Non lo so, se mi entra nei denanzi. Come presenza del display è meglio il 6.009 perché c'è il display azzurro, capito? Perlomeno mi piace di più, ecco. Invece il 5005 c'è l'arancione, non mi piace tanto, però io me l'ho preso, almeno ce l'ho. Lo stavo guardando da Media Globo, 157 euro, però non ce n'erano disponibili, ma è tua città. Infatti Media Globo ce l'aveva, poi altri non lo so, e ne sono diversi, però hanno un altro nome, sono precisi, costano troppo, cazzo, vado poi mi cazzo, un bel carico in altri posti, per cui mi dà come invece, c'è un po' freddo, però è meglio, perlomeno, sono precisi, non cambia niente, cambia solo la luce dei display, e poi basta, tra i 6009 e il 5005. Sono tutto preciso. Io l'ho visto da Media Globo, solo che non era disponibile. Hanno detto dopo le feste, dopo Ferragosto. Dopo il 31 che rientrano dalle ferie. Piano piano. Un soldo adesso, un soldo domani e ce l'ho su. Va bene. Ma mezz'ora che devo fare. La cosa è quella, la cosa, a me quando la cosa, se me la posso prendere. prende l'ha preso, se non me l'ha fatto prendere va bene. Aspetta, se non è oggi magari sarà un mese, due mesi, però se mi piace l'ho preso. Sì, no, già è così. Vedremo. Se va bene. Andremo, se no mi fermo. E infatti. Tra cui mi ha fatto scale abbiamo. Lo ripeto, io pure io e non mi sto fermato, però va, mi ferma, va, basta, tu, e tu, infatti. Le pattuglie sono quelle che contengono, è così, la blue line è controllata. Non mi fermo, se non andrà avanti, non mi fermo. Infatti, ti va dato, se non cambi lavoro, già si ferma. Infatti è così. Il malore è mai compagno. Se ti andrà avanti, a voi a un certo punto già ti fermi. Sì, a Baragallo, sì. Vabbè, io ripeto, mi sono piaciuto, mi sono preso, anche se ce li ho presi, per dire no, cazzo, è perfetto, no, cazzo, tra il 2009 e il 2005 sono preso, tutto preciso, non cambia nulla, cambia solo il colore del display, è preciso. Sì, no, sono precisi. Sono precisi, sono. Solo che se sei a Milano vengo già di più. Quello costa. No, tutto l'ho pagato, tutto l'ho preso, l'ho pagato 220 tra trasporto e tutto, 220. Capito? In altri posti, secondo me, dove lo prendete, costano di più anche. Sì, in altri posti costano di più, sì, 330, 340, più il trasporto. E allora, certo, è un po' tutto, ho uno o l'altro, per tutte le sue cose, quello delle 6.009, con il Cosanturo, quello è stato sul telefono, quando si appena stretto il numero di telefono, direttamente alla casa, capito? E c'è il tranquillo, perché se sei e su un foglio posso di più, capito? Invece alla casa posso di meno. Anche da me da robo, 156 euro più 9 euro. Esatto, sì, come ho fatto io. Quando arrivi mi mandano il messaggio che arrivi tu. Va bene, mi aveva la cazzata, l'ho visto su quello scaffale, quello che ha fatto l'esposizione, e mi aveva la cazzata, evidentemente gli ha finito. Poi ripeto, poi è stato un bene che a me si è spento direttamente e l'abbiamo spento e l'hanno cambiato nuovo, so. Anche quello è un vantaggio. Sì, infatti. La sanità è stata... Infatti così, se c'è qualche problema, glielo rimando indietro e loro te lo cambiano. Dovrebbe essere 2 anni di garanzia, so. 2 anni di garanzia dovrebbe essere... 2 anni di garanzia c'hanno 2 anni di garanzia, se no tocca il bollino. Infatti 2 anni di garanzia, anche se 2009 c'ha 2 anni di garanzia, è stato preciso, hanno cambiato il nome, l'hanno cambiato, però è stato preciso, se invece li fa la stessa casa, capito? E magari in un posto a una nazione gli mettono un nome, a un'altra nazione gli mettono un altro nome, ah, c'è caduto. Poi c'è quello, il 555, che c'è quello N, che c'è il filtro dentro. Quello che c'è, il 2009 c'è il 5005, la stessa cosa. Quello N c'è il filtro dentro, con la levetta e commutatore. Certo, non lo so, vado bene, sto tranquillo. forza, magari anche se voi sono in difficoltà. Poi c'è il coso, costa 20 euro in più, costa. Cosa c'è 20 euro? Che costa quello con quello con la N, quello c'è, cioè, il commutatore e il filtro dentro, e costa 20 euro in più. Ma io la bruci, e frusci dall'anima. Non con più. Aspetta, devo lasciare che il vicino del coso è fruscendo, faccio intendere. Ah, come c'è lavoro il suo fruscio. E eventualmente lo sta attaccando di qua. Allora, aspetta, l'ho frusciato. Mi piace a frusciare. Ma che non è, no, l'obito che per gente è un canale. Ma se buona frusciare, la giù con preso. Ecco. Tutti bravo li siamo, se sei bravo ci sei la pietra, se sei cattivo ci sei i cantoni. Vabbè, ma non dico io. Aspetta, a cosa prima di bruciare? Vabbè, frusciò buono, lo sto assando. Non l'ho sentito io, io sono meno quello, bello il fatto. No, non l'ho sentito. A quanto scala era? Allora insomma, allora insomma. Non lo so che era, però prima cosa si vede gente o si vede alcuni. Vabbè. Cosa mi fa? Perché ma la salute che ti dice? Vabbè. Sarà così? No? Andiamo bene, andiamo. No, manco qua ci sono io chiuso. Ci sentiamo domani, c'è il tuo, ok? Ciao Gianmarie, ci risentiamo alle prossime, ok? Ciao Gianmarie, alle prossime. Ok, ciao.